Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Con l'avvento del digitale terrestre, solo pochi anni fa abbiamo imparato che usando in modo più intelligente le frequenze radio era possibile trasmettere su queste stesse frequenze molti più canali televisivi, in questo caso passando dall'analogico al digitale. 15 anni fa, analogamente, si scoprì che con il giusto protocollo di trasmissione, che oggi tutti conosciamo come ADSL, il doppino telefonico permetteva di trasmettere dati con una velocità non più dell'ordine dei kilobit, tipica dei modem di allora, ma nell'ordine addirittura dei megabit. Ebbene, la notizia è che qualcosa del genere potrebbe accadere anche nel campo della fibra ottica, grazie ai risultati conseguiti dal progetto europeo Coconut, portato avanti da un team composto da università e industrie dell'high-tech europee, coordinate da Ernesto Ciaramella della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che naturalmente è in linea con noi. Buonasera Ciaramella. Buonasera a voi. Senta, allora, se ho capito bene, parliamo proprio di ampliare enormemente la capacità di trasmettere informazioni lungo una fibra ottica. Allora, provi a spiegarci un po' come ci siete arrivati. Sì, parliamo innanzitutto di ampliare la capacità di una fibra ottica nella rete di accesso, cioè quella che arriva in prossimità, se non addirittura a casa dell'utente. L'idea è che si possa utilizzare il dominio delle lunghezze d'onda, cioè utilizzare più canali che hanno frequenza, ovvero, ripeto, lunghezza d'onda differente. Colore, in questo caso potremmo proprio dire, perché si tratta di luce, diciamo, anche se non esattamente visibile, ma questi sono dettagli. Perfetto. Questo è analogo a quello che accade nel mondo della televisione o della radio, se preferisce, no? In cui diversi canali vengono trasmessi a frequenza diversa e chi si vuole sintonizzare su un canale sceglie indirettamente la frequenza di ricezione. Ecco, questa cosa che è abbastanza facile fare con le onde radio è molto più difficile da fare con la luce, perché ha delle frequenze molto più alte, adesso senza entrare naturalmente nei dettagli, ma è sostanzialmente, prima questa fibra trasmetteva su un solo colore o al massimo su 3 o 4, voi siete riusciti a metterci un arcobaleno dentro. Esatto, siamo riusciti a dimostrare che con una tecnica di ricezione che si definisce coerente, che viene usata anche per la rete di lunga distanza, si può effettuare la selezione del canale in ricezione in una rete FTTH in maniera analoga a come funziona una vecchia radio. Ok, FTTH vuol dire fiber... La manopola e si cambia canale passando da una frequenza all'altra. Perfetto, FTTH starebbe per fibra ottica fino a casa, esatto. Tradotto brutalmente. E quindi si riesce a ottenere un VDM, Wavelength Division Multiplexing, cioè questa suddivisione in tanti canali, in canali ultra denso, cioè mettendo i canali molto ma molto vicini in frequenza l'uno con l'altro, e contemporaneamente consente di aumentare il margine tra la centrale e l'utente, quindi anche utenti che si trovano molto più lontani dalla centrale possono essere serviti. Naturalmente la fibra ottica deve arrivare a casa loro in ogni caso. Ecco, quindi comunque la parte di fibra vera e propria, i cavi restano quelli lì, bisogna cambiare un po', diciamo, la parte di elettronica che gestisce questa fibra, esatto. Però per ovvie ragioni, naturalmente. Usando un'altra per caratteristica è che questi ricevitori devono essere economici. Esatto, cioè non devo portare a casa un ricevitore che costa come una macchina, certo. Ma devo portare a casa un ricevitore che costa poco più di un modem ADSL di oggi. Proviamo a fare un esempio concreto. Che cosa vuol dire in pratica, in termini di capacità di trasmettere informazione? Questo significa che in linea teorica si può arrivare a 1 gigabit al secondo a casa di ciascun utente. Con 1 gigabit si trasmettono film in qualche secondo, credo. Possiamo sì, dire così. Prima. Diciamo che 1 gigabit, il panorama delle applicazioni è ancora da esplorare, okay. Però c'è chi lo sta già facendo e si ripromette anche di farci parecchio business. Senta, oggi il mercato dell'hardware, delle infrastrutture in fibra ottica, è soprattutto appannaggio americano ed asiatico. Queste ricerche possono concretamente poi portare delle ricadute in Italia anche di tipo industriale? Lo speriamo vivamente, perché uno dei partner del progetto è Ericsson, che in Italia ha alcune migliaia di dipendenti che lavorano sulla realizzazione, il test e l'installazione di sistemi in fibra ottica. quindi ci auguriamo che ci possano essere positive ricadute dal punto per questi, di vista. Per intanto c'è Pisa che ha potuto beneficiare di questa ricerca. Certo, se non altro dal punto di vista dell'immagine va sottolineato che la prima sperimentazione è stata fatta a Pisa, città che ha avuto tramite la sua amministrazione comunale una squisita sensibilità verso questo tema. E tramite la rete in fibra ottica della società Gestel, che ci ha messo a disposizione le sue fibre per poter testare la validità delle nostre soluzioni. Grazie Ernesto Ciaramella. Grazie a voi, buona serata. Va bene, ci fermiamo qui. Come sempre, appuntamento a domani.